La donna vacilla,

Thank you. Avete una gran fede. E voi? Non credo più. Ho rinunciato al mondo. Non mi viene a noia. Che la bella natura. Diretta a mia Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Sono per farvi chiacchierare.

mia madre, muto è il fratello. E con dispaccio è di mio fratello al certo. No, di Borov. Hai la grazia! La tua grazia! Figlia mia! Oh, bianca notare! Amore, fratello! La dolce casa abbandonata! Oh, mio! Qui salutarmi! Mi è concesso al dio! E tu mi seguirai! Ma che d'ora mi aggruppati nella sorte ancor di vivo farò fiere da Parigi oggi stesso chi sarà forse giunto che hai smemorato mi scordavo delle lettere e ti farò precedente questa lettera il dispaccio tua stessa insieme al nome dei complici i miei complici chi sono Valeriano mio fratello lui o quale infamia quella lettera è scritta da una rossa dimorante a Parigi segnò con il nome di battesimo ma la scopriremo dire che non la lettera conoscerò la mia nemica al fin Iariskin resto comandò di tuo fratello Valeriano restato la fortezza il fossato la notte affogata mia madre madre mia morti per me morti innocenti e quella donna, la maledetta spia che mi segue sempre ovunque, ma l'avremo a colei anch'io! Perché, fedora da me ti scosti, thank you. Thank you. 这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡夫奇利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.